Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, buona serata a tutti, benvenuti alle nostre frequenze. Questa è Blu Time Live, la programmazione dal vivo di Blu Radio Veneto. Buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, anche questa serata, come già annunciato, grande live per presentare un lavoro che deve ancora uscire ufficialmente, però già potremmo ascoltare qualcosina, perché no, sia del precedente lavoro sia di quello che uscirà appunto l'8 marzo, festa della donna, ma anche festa per questo gruppo giunto con questo suo ultimo lavoro. E allora, perché non dare il benvenuto a Miss Chain and the Broken Heels? Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera ascoltatori. Allora, come va? Tutto bene? Fatto buon viaggio? Sì. Benissimo, ecco, sì. Benissimo, la neve c'era dalle vostre parti, sì, spalata, tutto regolare. Beh, voi siete in quattro ufficialmente, no? Come gruppo, per cui vi date sempre una mano tra pale, scope o altre cose, no? Assolutamente, è un gioco di squadra. Per lo meno a giudicare dai video di cui poi parleremo, diciamo che si vede veramente la squadra in questi Miss Chain and the Broken Heels, che sono in formazione ridotta in questa serata. Quindi salutiamo Astrid, voce e chitarra della band, e poi ancora Silva Disaster, perlomeno così si fa chiamare e conoscere dai suoi fan, alla chitarra, e naturalmente in questa intervista lo sentiremo anche alla voce. Poi tu fai anche i cori, Silva, vero? Esatto, sì. Benissimo, sei i cori e poi anche le tastiere, ti ho visto. Sì, durante i live sì, anche se Astrid sia nel disco ma anche in un pezzo dal vivo suona la farfisa, che è l'organetto, diciamo, che portiamo con noi. Maurizio. Sì, interessante il progetto, interessante una cosa che ho sentito, l'ho letto tra le diverse recensioni copiose, positive del disco precedente, avete spopolato negli States, in Italia siete poco conosciuti, negli States siete conosciutissimi grazie a un'etichetta alternativa. Come mai questo fatto, Astrid, questa calata negli States? Come è successo questa idea? Come è partita? Ma intanto analizziamo cosa fate. Fate power pop. Allora, stiamo cercando un po' di uscire. Possiamo dire, sì. Definirlo è un po' indefinibile. Esatto, sì, è molto bello. Fate la vostra musica. Esatto. È perché si vuole sempre dare un'etichetta alle cose. In realtà, molte volte, se non si parla di riferimento musicale, si va molto meglio, perché così si ha uno spazio a 360 e anche più gradi su cui parlare. Esatto, questo è anche un po' l'obiettivo che abbiamo raggiunto senza nemmeno tanto pensarci, registrando il nostro ultimo nuovo disco. E riferimenti ne abbiamo un sacco, ascoltiamo soprattutto musica che proviene dagli States, è un po' la nostra culla per quello che riguarda gli oldies americani, anni 50, anni 60. Dagli anni 50 in su, praticamente. Sì. Come mai, Astrid, questa idea degli anni 50 in su? Tu sei giovane, molto giovane rispetto agli anni 50. Ma devo ringraziare mio padre e mia madre fondamentalmente per avermi fatto crescere a Beach Boys, Beatles, anche l'Inghilterra, certo, ha avuto un fondamentale posto nel cuore di mia madre, e quindi quella è stata un po' come sono stata nutrita. Diciamo. Sei stata nutrita bene. Sì, sì, sì, ringrazio. E quindi si sentono queste influenze che sicuramente si possono percepire ascoltando le nostre canzoni e la magia che cerchiamo di ricreare, che ricreiamo. Una magia colorata, secondo sì. me, molto colorata. Sì, sì, sicuramente. Diciamo. Tutte le sfumature dei colori ci sono. L'arcobaleno. L'arcobaleno. Beh, sì. Beach Boys hanno un arcobaleno a 360 gradi. Abbiamo già nominato il nome di quello che è un singolo che sentiremo più avanti, che fa parte della vostra ultima produzione, però... direi che facciamo ascoltare subito agli ascoltatori di che musica stiamo parlando. Quindi ascoltiamo un pezzo di un album che vi ha diciamo regalato il successo qualche anno fa. Stiamo parlando di On a Bitter Sweet Ride, e ci ascoltiamo il pezzo, diciamo, che forse è il vostro manifesto in questo caso. Stiamo parlando di Roller Coaster. Ok, ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui in diretta a Blu Radio Veneto assieme a Miss Jane and the Broken Heels. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Della serie Giù il gettone ci siamo fatti un bel giro in giostra assieme a Miss Jane and the Broken Heels con questo pezzo, si intitola Roller Coaster ed è tratto appunto dal primo lavoro dei Miss Jane and the Broken Heels che si intitola On a Bittersweet Ride. E noi siamo fortunati a Blu Radio Veneto questa sera perché abbiamo proprio Miss Jane e i suoi tacchi rotti proprio qui in diretta. Allora, innanzitutto, Astrid, come mai il nome così particolare del gruppo? So che non ve l'ha chiesto nessuno, però... Già. Mi cogli impreparata. Ecco, la signora catena assieme ai tacchi rotti. Miss Jane è semplicemente un nickname che mi porto dall'adolescenza, quando suonavo con un altro gruppo femminile, punk rock, e avevo scelto per un discorso di sonorità, questo Miss Chain. Sì, sarebbe stata anche una delle prossime domande. Ecco, venite qui, dal punk. Mi sono salvato. Rispondo già a tutto. Certo, rispondi, rispondi. And the Broken Heels, in realtà il nome è stato suggerito da un amico che si divertiva spesso a serate, durante serate DJ set, a vedermi ballare con i tacchi e vedermi rompere molto spesso i tacchi e cercare di stare in piedi durante la serata. Perché nonostante tu non sia proprio bassa. No, infatti, insistevo tacchi, e comunque volevo mettere i tacchi comunque li rompevo, adesso ho smesso. E mi sono data alle ballerine e ci ho rinunciato. Però il nome è rimasto quello. E i ragazzi come hanno preso? Mi sto riferendo a Brown, ancora a Franz e a Silva che è qui con noi. Come avete preso questa... È stato determinato il nome da Astrid oppure... Avete potuto scegliere anche voi qualcosa? No, il progetto come nome è partito assolutamente da Astrid. Quindi poi una volta firmato il contratto, insomma, il cartellino... Tutto quanto, la divisa... No, andava bene così, suonava molto bene, perché porsi delle domande negative? Era così, andava bene così. Sì, andava bene effettivamente così. Avete cominciato con dei singoli concentrati. Questo era un singolo assolutamente concentrato. Pochi minuti, come ci insegnavano i Ramones, in 2 minuti e 30 si fa tutto. Singolo concentrato, vivace, accattivante e molto movimentato, assolutamente movimentato. Perché avete cominciato con i singoli? Perché un'etichetta teutonica ha preso subito, ha ben partito nel senso positivo, vi ha preso sotto contratto e vi ha fatti esplodere negli Stati Uniti, o meglio, vi ha fatto sentire negli Stati Uniti chi eravate. Ma è stato... Teutonica, ricordiamo, con 25 anni di esperienza nel garage rock praticamente. Sì. Ma in realtà è stata una sorpresa, in quanto io avevo questi pezzi che erano un po' più poppeggianti e più melodici, e li ho registrati assieme ad un mio amico, sono stati messi su MySpace, al tempo funzionava ancora molto bene MySpace, e nel giro di pochi mesi ho ricevuto un messaggio con la proposta di realizzare un singolo con questi pezzi. E da lì è uscito il singolo per questa famosa etichetta americana. Sì, quella teutonica parlo. Ah, ok. Perché questo i singoli sono prima. Ah, sono prima, ok. E sono usciti per un'etichetta americana. Che poi dopo... Esatto. E da lì poi ne abbiamo buttati fuori altri due singoli. Perché fondamentalmente eravamo un gruppo nuovo, cioè non avevamo ancora molte canzoni per gli americani hanno detto ok, va bene così. Ci va bene questo, sì, siamo stati accolti appunto dagli States. E ma l'Onda Lunga poi è arrivata in Germania, però l'Onda Lunga. Esatto, e lì è poi una volta che abbiamo formato il gruppo, abbiamo fatto un tour. Noi ancora prima di fare l'album in realtà abbiamo fatto un tour in America. Quante date avete fatto? Il primo tour che abbiamo fatto, che eravamo formati da 5 mesi, 6 mesi. Abbiamo fatto il primo concerto da 6 mesi. Esatto. Praticamente nuovi. Sì, siamo partiti, siamo andati, abbiamo fatto 13 date erano. Come si fa a fare 13 date con... Forse un po' di più. Di più. Con una band... Anche le Nesti. E come si fa 13 date con una band appena... Qualcuno ne segnalava 18 date in 18 giorni. Eccola qua, 18. Sì, è vero? No, è vero. Come si fa a fare 18 date in 18 giorni? Anche un po' di più è capitato, perché... Ma, insomma, un altro discorso. Eravamo in 5, però in 2 formazioni. Bastava cambiare, diciamo, il bassista, c'era anche Laura con noi. E quindi è capitato di fare anche 2 concerti in una sera. Quindi... Come si fa a fare 18 date in 18 giorni in Istituto? Bisogna crederci tanto. Ma si mangia in qualche momento? Si dorme? Si mangia solo. Si mangia solo. Noi siamo andati là per quello, fondamentalmente. Ingozzarci. Con tutti gli zuccheri che hai a colazione in America, cioè vai avanti. Mamma mia. A fare uno show per 3 ore probabilmente. Il pubblico com'era, il pubblico americano? Bello. Molto, sono tutti amici, cioè tutti sono lì a supportarti, sono interessati, ascoltano, si fanno coinvolgere. Sì, quello che succede qua esattamente in Italia. Esattamente, proprio per questa cosa. Dove uno va a vedere, vede che c'è scritto qualcosa tipo Miss Chain, va a vedere, però preferisce la sua birra, no? Esattamente. Ecco, è sempre così. Però in America, almeno, in America... C'è un'altra cultura musicale, le persone che vengono ai concerti molto spesso ascoltano tanto, lo ascoltano da un bel po', sono, come diceva Astrid, molto interessati, e poi due cose anche molto divertenti, molto importanti. Comprano, anche se hanno poco, cercano di supportare le band, soprattutto se sono da distante, e gli amici con cui abbiamo spartito il palco spesso hanno anche dato magari parte del modestissimo cachet o comunque ospitalità o una grossa mano anche tra musicisti, una cosa che magari qui in Italia qualche non volta succede mai. Non accade. C'è più concorrenza qui, invece là c'è più collaborazione. C'è più collaborazione, sì. Se abbiamo notato questo. Anche perché voi venite dall'Italia, proponete la musica, diciamo, internazionale, in particolar modo, diciamo, molti riferimenti all'America ci sono, l'America, diciamo, dalla parte della West Coast soprattutto, sì. No? E quindi sempre musica, diciamo, allegra e che si presta bene a quelle temperature dove siete andati a suonare. Colorata. Sì. Decisamente. Colorata è invitante, accattivante per loro. Hai detto la parola giusta adesso, Maurizio, la parola invitante. Ecco, perché sì. Io volevo dire, invitiamo i nostri Miss Chain and the Broken Heels a suonarci anche qualcosa dal vivo. Ancora non è possibile ascoltare i pezzi da disco del vostro prossimo lavoro che si intitola Astrid? The Dawn, che è l'alba o l'aurora, ecco, e però potremo ascoltare qualcosa tipo, non so, Rainbow, Searcher, che sono i due singoli che so che stanno facendo già breccia, e però un altro pezzo a caso che parlavo, forse di India. Sì, facciamo, vi proponiamo un pezzo in anteprima del disco, quindi sì, va dai. Bene. Allora, si può fare? Sì, si può fare. Bene, allora ascoltiamo questa Calcutta. Allora. Calcutta. Benissimo, allora qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, Miss Chain and the Broken Heels, Calcutta. I'm bulk your arid skin, the darkest ever sin. Feel the deep of your fangs of ivory. Your laziness behold, the golem made of skulls. Take me your arms of gold. There are rainbows in every rainbow. Your knees and pray. The mother tasteless are the seeds of greed. Open your heart and you will swim into the sea of bliss. Dancing fear and wild, standing behind your chosen sons. Rather eyes away them all. Oh, Kali, oh my mother, come destroy the tower I built. Oh, Kali, mother fire, take me in your arms, swallow my sins. I will grant you all the power, grant me one desire, your will. Blu Radio Veneto. Blu Time Live. Blu Time. E qui a Blu Radio Veneto, Blu Time Live, abbiamo avuto quella che è un'anteprima formulata in versione acustica di quello che sarà un pezzo dell'ultimo lavoro, che sarà dei Miss Chain and the Broken Heels, si intitola Dawn, il titolo del disco che andrete a proporre, e questa invece Calcutta. Allora, per la prima volta l'abbiamo ascoltata anche noi in una versione molto più diciamo country rispetto a quello che potrebbe venire fuori da disco, dove invece voi mi dite no, si tratta sempre di pop and roll. No, no, no, in realtà questo disco ha anche molti accenti country, sì, country folk. Questo è un country folk, questi sì, anni sì, 50 sì, sì. Con una girata sì, verso sì, il sì. folk inglese, poi si torna agli anni 50, meno questo pezzo. Sì, sì, molto, anche Mexican Radio, secondo me. Sì, leggermente al confine, on the border. Cosa on the border, concordo. Concordi? Sì, sì, io l'ho sentito così, insomma. Molto bello, sì. molto interessante. È la prima volta che noi lo sentiamo, io e Flavio, quindi sì, da un certo rilievo. È la prima volta che lo ascoltiamo, anzi possiamo confermare i nostri ascoltatori, di solito dicono gli ascoltatori, i DJ, gli speaker, ascoltano sempre in anteprima tutto quanto, gli arriva sempre la roba 15 giorni prima, esatto. chissà come fanno. In realtà questa roba arriverà 15 giorni dopo da noi. Nel senso, no, arriverà penso l'8 marzo, comunque ce l'avete promesso, sì. ci arriverà il disco, intanto accontentiamoci, tra virgolette, di quello che ci possono proporre in questa serata, Miss Chained and Broken Hills. Allora, vogliamo capire un attimino anche la copertina. So che non è ancora ufficializzata, però c'è già un qualcosa che bolle in pentola. Sì, sì. C'è anche un qualcosa che parla di spiriti nella vostra copertina, no? Si potrebbe interpretare così, è una copertina molto bucolica. Sì, molto... Che ci sono tanti occhi, diciamo, no? Parla di un viaggio, una copertina che si può disegnare a pastelli. Sì. E parla del viaggio perché Rainbow, che è il pezzo, la side A del singolo, racconta di una storia, che è la storia che ho un po' vissuto quando ero in America, in California, dopo il tour. Mm-hmm. E quindi parla un po', cioè raccontata questa storia in un disegno con montagne, animaletti, mostriciattoli. È una bambina che sta prendendo l'ultimo parte di calore che dà il fuoco, no? Esatto. Che pensa di essere da sola e in realtà ci sono mille occhi indiscreti divisi tra spiritelli, trolls, gnometti vari sparsi per la foresta che guardano. Che guardano, che sono i ricordi, che sono occhi conosciuti, che sono stati conosciuti, incontrati durante appunto un mese di viaggio e sbucano lì. Quindi diciamo che ci sono gli occhi del mondo che guardano in questo disco. Sì, diciamo che magari non si è potuto disegnarli tutti, ma insomma ci sono e sono presenti. Rispetto all'album precedente, l'album del Grande Fortuna, l'album di 2 anni fa, il punk o il presunto punk si è allontanato, l'avete dimenticato oppure prosegue tra le righe? Tra le righe c'è sempre, però con un'altra dimensione. Sì, secondo me quello che vedo e sento io è che noi abbiamo sempre avuto un'attitudine punk. Esattamente, attitudine, sì. I singoli sono un'attitudine assoluta al punk. Soprattutto anche live, noi sul palco siete viscerali. E lì si vede il nostro essere esattamente punk, diretti, senza troppi fronzoli, sogniamo, vogliamo divertirci, ci divertiamo e proprio amiamo, in quel momento esatto, fare quello. Però, sì, l'atmosfera poteva essere anche quella punk subito di prima chito, però diciamo quando vi vedono salire sul palco sono ancora lì che aspettano a definirvi se ancora non conoscono la vostra musica, perché non è da punk che siete vestiti, siete arrivate normali, nel senso non ci sono particolari trucchi scenici, no? In realtà, in caso. Arriviamo al locale con le creste e le borchie, ma sì? Le togliamo, non è più di moda, non si fa più. Però le due chitarre sembrano chitarre da hobo più che da punk, sì, che era infatti. Sì, poi si entra nel locale in punta di piedi perché, voglio dire, i tacchi sono rotti, per cui, ecco. Abbiamo le spadrillas a posto. Per quello. Sarà il prossimo nome nella versione acustica, sarà Miss Jane the Spadrillas. Suona bene, no? Rovinato una carriera. Perfetto. Allora ci ascoltiamo ancora un pezzo da quello che è il vostro precedente lavoro, una Bittersweet Ride, e quindi questa volta voliamo assieme a Flamingo. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. It's a secret corner in New Jersey, a hidden place for Joe. Say hey guys, we must go. And once you step inside, some ladies come nearby and welcome you. We're working hard to find. You won't believe your eyes when you will see what kind of food they have. You pick your cream or pants, and before you realize, you'll find yourself so high set on a bed. Best place and just the best. If you're a trip, you try and then one day Flamingo is the place where you will leave your dreams. You don't get to say, I just wanna stay, I just wanna stay, like if you're there night and day. So let's get clear, you don't come to our eyes, sir, tell your ocean pain, but sure you won't complain. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Diciamo che con queste canzoni è una delle poche volte che riesco a vedere il ciuffo di Maurizio che si muove a destra e a sinistra, perché sì, veramente è un pezzo che invita sicuramente al movimento, quindi è un vero peccato essere seduti così ad ascoltare e quindi a pensare alla parte radio. Bisognerebbe anche muoversi, fare anche un po' di poga. Cosa succede nei concerti quando c'è questa canzone, Flamingo? Beh, effettivamente, come hai notato anche tu, abbiamo riscontrato che il più delle volte è il pezzo in cui le persone, gli ascoltatori, gli amici, insomma, partecipano di più. Era successo raramente, a dire la verità, che ai nostri concerti si pogasse. Però è capitato, soprattutto nel Bergamasco, due o tre anni fa, quando... però molto spesso la gente partecipa, balla... qualche volta no, molto spesso però c'è molta attenzione, ecco, c'è molta attenzione. Poi dipende anche sempre da come si sente, perché noi ce la mettiamo tutta per fare in modo di avere dei suoni che ci piacciono, che ci rispettino, che ci rispecchino, però talvolta capita che dall'impianto esca tutt'altro, e sul palco ci sono suoni che provengono dritti dal Pleistocene, quindi fischi, animali, cose, e molto spesso purtroppo Astrid ne paga le conseguenze, perché un conto è suonare la chitarra, vabbè, ma cantare senza sentirsi la voce... Sì, in effetti ci sono molti che per motivi forse anche di risparmio, no? Scegliono sempre degli impianti, non certo, non all'altezza forse ancora quell'impianto dei Beatles, lo stadio di... Dov'era Maurizio? Dove non si sentiva niente e tutti gridavano? È stadio americano, era in America chiaramente. Era in America, non si sentiva niente, però... Hollywood Bowl, una roba simile mi pare a quell'epoca. Ecco, quindi non era sicuramente... Però loro l'hanno sempre detto, cioè i concerti, sono rifiutati di fare i concerti perché era impossibile per loro suonare. Era talmente il rumore di fondo che non si sentivano fra di loro. Uno dei motivi, certo, perché loro hanno detto di no. sono alti, però anche questo può essere un motivo. Voi però vi sentite quando suonate? Sì, sì. Oddio, no, che a noi capita di avere un pubblico talmente entusiasta e preso bene che canta per noi i pezzi. È vero, e questa è una marcetta, secondo me, una piccola marcetta Flamingo. Sì, può essere. Sì, sì, io l'ho identificato, marcetta nel senso positivo, cioè marcetta da movimento, fate muovere, questo voglio dire. Sì, tra altre cose anche Flamingo fa parte anche di uno dei vostri video, perché si possono anche vedere Miss Chain, The Broken Hills, ci sono vari video che portano appunto risultati della vostra vita in comune, voglio dire, il vostro desiderio di vivere tutti insieme, quindi diciamo non ci sono particolari trame all'interno di quelli che sono i video presentati da Miss Chain and the Broken Hills, c'è tutta la testimonianza di una vita di gruppo ben vissuta e soprattutto dove ci si diverte, quindi un invito anche dopo aver ascoltato la trasmissione ad andare anche su YouTube a vedere qualcosa di più riguardo ai Miss Chain the Broken Hills. Poi c'è anche Roller Coaster, Up All Night, ce ne sono tantissimi che vi vedono appunto protagonisti divertenti ma anche protagonisti dal vivo in certe altre situazioni. Roller Coaster è assolutamente americano, Roller Coaster assolutamente sì. Identifica proprio un modo di suonare o di interpretare, di sentire la musica negli Stati Uniti. Sì. E voi che siete stati in America, amate l'America, le stesse chitarre sono americane, non sono, saranno italiane, ma sono americane come visuale, come costruzione, come modo di interpretarle, di sentirle, di suonarle. Due oboe, come ho ripetuto precedentemente, sono due oboe. Un uomo femminile e un uomo maschile, beh, non c'è mica niente di male, esattamente. Esattamente. Anche se tu sei chitarrista solista, anche elettrico sicuramente. Sì, sì, sì. Questa sera siamo qui in acustico, è capitato qualche volta di fare anche assieme a Franz e a Bruno dei... Che sono due fratelli, mi pare. Sono i due fratelli, esatto. Ma il batterista, che carica vi dà il batterista? Bruno sa il fatto suo. Sa il fatto suo, no? Bruno sa il fatto suo e poi è dedito al suo strumento, ha molta cura e continua a migliorarsi, a proporre anche cose che infatti hanno influito parecchio poi sulle ritmiche del disco. Beh, la ritmica è fondamentale in una band che fa garage, tra parentesi, tra virgolette, chiaramente. Poi anche lui è partito con il punk, riusciva a fare delle cose con Charleston incredibili, veramente veloci. Adesso si è un po' impigrito ma a noi va benissimo Bruno. Si è un po' impigrito per modo di dire, tra virgolette. Allora salutiamo anche a distanza Brown and Franz, i due ragazzi, fratelli che sono parte integrante di Miss Jane and the Broken Hills. In questa serata invece qui in studio con noi c'è Disaster Silva, perlomeno così dicono le cronache, e c'è Astrid. Allora, ancora un pezzo live di un singolo che si sta muovendo adesso proprio a edulcorare un po' quello che può essere il vostro nuovo lavoro. Ricordiamo ancora una volta, uscirà l'8 di marzo, si intitola The Dawn. E in questo caso ci ascoltiamo Rainbow, perché no? Questa bella canzone che parla dell'arcobaleno. Va benissimo. Benissimo. Andiamo allora, con Rainbow. A Blu Radio Veneto, Miss Chain and the Broken Heat. I left my home, thought I'd never return. I like to dream, that's all I'm wrong, settle her. A heart full of hope. I traveled from the south till I reached the north. I saw a lot of places that my eyes didn't know. I went with the flow. I heard a melody on my way, sounded like somebody's prayer. I heard a man in song. Smile. Then I stood on my feet knowing it was time. Feeling like I'm a gypsy rider, need another road where I've never been. Like stop, settle down, give me some. till they fell. I sent to the mountains and the rocks started to fall. Why were the low? I whispered to the wind and it gave me a spin. I cried to the ocean, I got stuck into a wheel. A sign of my wheel. Howling to the moon will lead me to the waking of the great white snake inside. I don't wanna hide. Feeling stuck, I'm a gypsy rider. Show you after. Did you ever see the rainbow grow? Come with me, I'll show you after. Did you ever see the rainbow grow? Oh no, come with me, I'll show you after. Did you ever see the rainbow grow? Oh no, come with me, I'll show you after. And did you ever see the rainbow grow? Oh no. Did you ever see the rainbow grow? Oh no. Right, didn't you know? Didn't you know? No, no, no. No, no, no. Where did you go? Where did you go? No, no, no. No, no, no. Did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Si intitola Rainbow, questo è un pezzo tratto da quello che è l'ultimo lavoro, deve ancora uscire, però è l'ultimo lavoro di Miss Chain and the Broken Hills, questo Rainbow che è proprio un arcobaleno, si sentono proprio i colori in questo caso di quella che è la vostra canzone, sempre molto molto delicata, che prende un po' le distanze da quello che è stato il vostro precedente lavoro, oppure voglio dire nella versione da disco è ancora cattivone? No, vero? No, è sempre, non è che prenda proprio le distanze per forza di cose. Sicuramente la strada viene percorsa, no? Cioè non è sempre la stessa, non abbiamo ribattuto la stessa strada, ma in modo spontaneo ci siamo direzionati verso qualcosa appunto più countryeggiante, più folk, sempre melodico, meno concentrato e aggressivo. Sì, abbiamo giocato anche un po' di più, anzi un bel po' di più in studio, pur avendo le idee ben precise, ma Pierluigi Ballarin ci ha aiutato un bel po', che è l'attuale produttore, con molte idee, con molte soluzioni, senza stravolgere ma aggiungendo un bel po'. Rimaniamo energici, però ci è venuto spontaneo seguire molti altri percorsi, abbiamo dato spazio anche ad altri percorsi. Ricordiamo che Pierluigi Ballarin è al TUP Studio di Brescia, in questo caso, e qualcuno definiva, così nella presentazione del disco The Dawn. The Dawn è un viaggio interiore che va ad indagare alcuni tra gli scorci più nascosti e oscuri dell'animo umano, quindi forse un concept album che parla di qualcosa di molto pregiato all'interno di voi. Sì, senza rendercene conto, alla fine abbiamo ottenuto una sorta di concept album, e soprattutto per quello che riguarda le tematiche dei testi, ma anche le sfumature, le sonorità e le magie che abbiamo ricreato in studio. Si tratta e si parla soprattutto, si suona e si canta soprattutto dell'ombra, delle luci che esistono in noi, delle sfumature della mente umana, in una sorta quasi di terapia d'ascolto. Un critico ha detto una cosa molto giusta, e Flavio sicuramente accetterà anche quello che dirò io, perché siamo d'accordo. Ha parlato di wall of sound, cioè del muro del suono, ha parlato di Phil Spector, e assolutamente l'ultima parte del concerto, del pezzo che avete fatto in questo momento, è molto muro del suono. I cori ricordano molto Phil Spector, il modo di suonare di Phil Spector, di interpretare, di coinvolgere, di costruire, e quello è molto positivo per me che ho una certa età, chiaramente. È molto bello questo discorso spectoriano, non so se siete d'accordo, voi siete giovani, però Phil Spector è stato fondamentale per la musica degli anni 60. Tanto grazie, sì, perché siamo sicuramente felici. Non è cosa da poco, hai detto tanto. Sì, perché io ho sentito Phil Spector, ho sentito il modo di fare, l'impasto vocale degli ultimi secondi del pezzo ricordava molto quelle atmosfere là. E non è una ricerca, è anche un omaggio probabilmente indubbio, indiretto a Phil Spector, che adesso ha altre cose da fare, visto che tra quattro sbarre da un po' di tempo. Sicuramente tra gli ascolti e il pane quotidiano c'era il sound girl group. Esattamente. E sono cresciuta anche proprio con quello, e per che me è stato una lui fonte a fondarlo. Di ispirazione, al di là dei Beach Boys, che non faccio parlare della sua scuderia, ma lui che ha fondato la matrice del sound, l'ha fondata lui, c'è poco da fare. Ne sa qualcosa John Lennon, i trascorsi di John Lennon con Phil Spector sono edificanti, anche in un punto di vista musicale, assolutamente. Però quindi è importante, secondo me, anche Brown, questa prospettiva. Il nostro batterista è un appassionato di tutto ciò e si sta facendo una cultura. Motown. È Motown, esattamente. E anche in studio si è lavorato molto. Abbiamo registrato tutto in analogico su nastro, proprio per ricreare quel suono con quella pasta e con quelle dinamiche, per far sì che non si perdesse nulla della presa in diretta. Questo l'avete registrato proprio in presa diretta, l'avete anche spedito ai giapponesi, vero? Sì, adesso l'etichetta che produrrà che il disco in Giappone, il singolo. Sì, questo singolo qui adesso viene stampato anche in Giappone dalla Dream On Records. Appunto, quindi. Perché la prima stampa è già andata sold out, per l'appunto. Pochissime settimane. Sì. Tre. Cari discografici italiani, provate ad ascoltare queste cose qualche volta. Già. Poi adesso noi arriveranno anche loro. Stiamo vivendo una terribile concorrenza proprio in questo momento, perché sapete, è cominciato il Festival di Sanremo e quindi saranno in tanti incollati alla televisione. Però voglio dire, vabbè, non c'è niente a che vedere con la radio. Mi spiace per loro, noi qui ci stiamo divertendo, non so loro. Poi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione che state ascoltando in diretta in questo momento verrà anche inserita in forma registrata, naturalmente, all'interno dei nostri archivi sonori, quindi potrete riascoltare Miss Jane and the Broken Hills con questa intervista e con questi pezzi in alternativa a quelli che saranno i pezzi, appunto, che fanno parte del nuovo lavoro su CD, si intitola The Dawn ed è proprio disponibile dall'8 marzo, proprio per fare concorrenza anche a quella che è la compilation di Sanremo. Ecco. È stato tutto studiato, lo stesso numero di copie, esatto. La troverete in autogrill. Sì. Certo, al posto del panino, ecco qua. Allora, direi andiamo avanti ancora con un qualcosa del vostro ultimo lavoro, visto che in versione acustica si può fare. Allora, in questo caso, The Dawn Is Me, dici tu, Astrid, vero? Sì, proponiamo quella. Sei tu l'alba? Ma non necessariamente, caso. Però dai, facciamo. In questo momento mi sentirò l'alba. Benissimo. Allora ce l'ascoltiamo qui in diretta da Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, Loro sono Miss Chain and the Broken Heels. Eccoli qua. Don't stand at my grave, don't you weep. I'm not lying there, lost in deep. When you awake in the morning's hush, talk to the you that you rush. In the softly falling snow, in the clouds floating low, in the freezy wind that blows, you'll see me there. I'm in your dreams, I'm in the light beam. Follow my stream, flowers will bloom, you'll see me soon. Walk on the dawn, it's me. Ascoltate un'altra anticipazione da quello che è il nuovo lavoro dei Miss Chain and the Broken Heels, che abbiamo qui con noi nella nostra pagina live di Blu Radio Veneto. E allora, The Dawn Is Me, una bella canzone, sempre forse un po' folk e anche un po' rhythm and blues in questo caso. C'è una voce molto molto corposa che contraddistingue. Quindi diciamo siamo partiti senza etichettare, diciamo, la cosa, però poi c'è dell'America in tutti i sensi qui dentro. Sì, questa sicuramente su disco è molto molto più carica e sì, più energica, si sente una bella botta. E un po' su tutto il disco la mia linea di voce è molto profonda, quasi a tratti soul, dicono. E quindi molto grintosa e alle radici. Ma anche qui era grintosa. Sì, era grintosa in questo momento. Io da sottolineare, Flavio, l'ottimo assolo che ha fatto Silva, scatenato. Lo rifai un secondo, era bellissimo quell'assolo. Con l'acustica? Sì, quello, era veramente bello. Com'è? Proprio quello, sì. E poi va avanti. E va avanti. Interessante, decisamente interessante. Come mai questa ondata, questo amore per il country di un certo tipo in questo assolo? Perché sicuramente fa parte dei nostri ascolti. Il folk, il country. Quello ortodosso, però, questo era piuttosto ortodosso. Poi no, proprio si è sviluppato diversi, si allontana, però in quel momento là era molto ortodosso. Noi siamo per gli outlaw comunque. Ah, perfetto, capisco. Sia ben chiaro, no, a parte poi i gusti musicali e divisioni che sono state poi anche create un po', se vogliamo, a tavolino, ma sì. È sicuramente una fonte di ispirazione anche per alcune tematiche dei testi che ci piacciono. Poi ovviamente Art Street ha fatto un grosso lavoro, molto indipendente anche secondo me, una personale opinione per quanto riguarda la stesura delle parole testi da cantare, sì, molto personali, ma resi in modo tale che siano poi anche fruibili e piacevoli e profondi anche da, dal punto di vista delle persone che poi leggono senza conoscere ovviamente. Certo, certo, certo, visto certo. Che parliamo di ispirazioni, allora cerchiamo di definire tre artisti, vostri riferimenti abbinati a tre album che vorrete così anche consigliare ai nostri ascoltatori. Qualcosa so che è una domanda a bruciapelo, non è mai preparata questa, difatti non si dice mai. Allora la butto lì subito. Butti. Il primo che mi viene in mente, sì, è proprio perché siamo sulla stessa barca e bisogna sponsorizzarsi, sì, a vicenda. Sì. C'è un gruppo che si chiama Universal Sex Arena. Questo non c'entra niente, non c'entra niente con quanto per quanto che riguarda le influenze del gruppo mio personale. Certo. Però sono un gruppo di nostri amici da Padova e sono eccellenti. Prendi nota, Maurizio. Universal Sex Arena. Perfetto. Nome provocatorio. Anche l'ho già scritto. Però sono dei grandi musicisti, dei grandi compositori, dei grandi performers e meritano molto spazio. Però ecco, ripeto, questo forse devia un po' dalla domanda che vi hai posto tu. Ecco, quindi, visto che sono di Padova, direi che immediato è il contatto a questo punto, no? Sì, beh, adesso arriva fra poco il nostro direttore artistico, Alberto Prisco, che vi ha anche convocato, che salutiamo, che arriverà fra poco la sua classifica. Sicuramente lui ha già preso nota via radio quello che avete detto. Bene. Benissimo, adesso allora ne hai ancora tre. Sì, esattamente, quello era l'anteprima. Posso telefonata da casa? Sì. No, quelle sono vietate. Vuoi sentire Brown e Franz cosa ne pensano? Dunque, tre dischi, caspita. Astrid, ti vedevo molto più... vado io, inizio, sì, allora. Creedence, Clearwater Revival. Quale dei Creedence? Sì. Tutti, tutti quanti? Sì, sì. Unicum. Basic, sì, sì. Perfetto. Da Proud Mary in su, dai. Sì, esatto. Vabbè. Lì non ci penso nemmeno. Sam Cooke, il live Harlem. E qui le tue reminiscenze soul, esatto, vanno fuori. E poi Pericchio, direi. Non l'ho mai sentito questo. Quello è nuovo. È stato coniato per l'occasione. Per bacchino. The Sound of Sun Forest. The Sun Forest. Un po' più magici e folk, appunto. Quindi, bene, io ho dato i miei tre. Benissimo, adesso puoi giocarti il jolly e non dirli. Oppure... Beh, allora, pensando anche ai dischi che abbiamo ascoltato assieme... Mi viene da dire Fix My Brain dei The Market Men, che è un gruppo punk rock che attualmente sono ancora, speriamo arrivi presto qui. Pensando proprio agli ascolti anche comuni in furgone negli anni trascorsi. Poi, gli ascolti in furgone, interessante questo, gli ascolti in furgone. Sono parte integrante della vita del punk. On the road. Non solo del punk, in genere on the road. Sì, anche perché nel furgone la gran cassa si sente molto di più, no? Poi, caspita, mi trovo un po'... non sono Astrid, non ha citato i Beatles, ma sicuramente abbiamo ascoltati tantissimo. Potremmo sceglierne uno anche tra i primissimi, With the Beatles, certo. prima addirittura di arrivare a cose che magari apprezziamo ultimamente, quindi più sperimentali proprio all'inizio, all'inizio. Sì, sì, sì, assolutamente. Me ne manca uno, sì. Beh, Springsteen, quale? Del boss The River. Hai scelto un disco da caso, pesante, doppio album, doppio vinile. Così ci basta, se possiamo portarli nell'isola deserta. Esatto. Ci vanno il boss bene. È sempre il boss. Sì. C'è poco da fare. Respect. Io, secondo me, nell'inizio di questo il pezzo che abbiamo sentito prima, c'era un po' degli Everly Brothers. Conoscete? Sicuramente li conoscete, gli Everly Brothers. Adesso hanno fatto recentemente una solista americana ha riproposto un tributo agli Everly Brothers. Erano molto importanti, le hanno sempre detto i Beatles che erano importanti per gli impasti vocali. Gli stessi Beach Boys si sono ispirati in parte agli Everly Brothers. Benissimo, allora facciamoci ispirare anche noi dalla musica di Miss Chain and the Broken Hills. Questa volta un altro pezzo molto molto forte, si intitola Up All Night, qui a Blu Radio Veneto. I'm running fast as I can, but every Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E abbiamo ascoltato un altro brano esplosivo con tanto di finale dove mi sa che si è rotto qualcosa, no? Tipo una chitarra, vi siete fatti trasportare alla Pete Townshend in questo caso. Apple Knight si intitola questo pezzo, tratto dal lavoro di qualche anno fa, si intitola On a Bittersweet Ride, che è uscito in forma vinilica in questo caso, quindi... Visto che c'era questa musica che parla degli anni 60-70, niente di meglio che dire: il CD non c'era, il supporto digitale non c'era, meglio proporsi col vinile. E questo vi ha contraddistinto, anche se magari i giovani, anche se voi siete giovanissimi, però i vostri coetanei forse non l'hanno respirato alla stessa maniera della vostra proposta. Sì, abbiamo, è stato comunque stampato un CD che è andato via, è subito. Volato subito. Sì. È andato via subito. Grazie mamma. No. Però è tutti vero i che... familiari, nipoti, zii, tutti. Regalo di Natale per tutti, CD. Beh, sicuramente ha aiutato i genitori, i parenti. Sì, però non da cioè, tutto. Non sicuramente c'era il libricino con i ringraziamenti formati da cinquantina di pagine. No, siamo rimasti fin dall'inizio, ci siamo voluti presentare con il vinile e far sì che caratterizzasse la nostra musica, perché così come la scelta di registrare in analogico in uno studio di registrazione come ai tempi che furono, la stessa scelta è stata fatta per il mezzo. Che poi non solamente con il vinile in questo caso, ma anche qualcuno parla anche di cassette di nastri registrati. Musicassette. Musicassette per un'etichetta americana, Burgers Records di Los Angeles. Perché credo sia proprio sia nata così, è esplosa poco prima che noi... Che la cassetta? Ah no, scusa, sì. Può essere. La Burger Records appunto penso sia esplosa qualche mese prima, ora sicuramente Franza è quello che conosce decisamente meglio la storia dell'etichetta, mi spiace non avere alcune lacune al riguardo. Poco prima che noi arrivassimo negli Stati Uniti, e credo sia funzionato così, in quella zona moltissimi dei ragazzini che acquistavano una scassatissima automobile usata, quindi insomma... Sì, la prima auto, e questa automobile aveva come supporto una musicassetta. E poi con il prezzo con il quale un ragazzo comunque un po' squattrinato, come tanti siamo, eravamo, può acquistare un vinile, probabilmente può acquistare tre musicassette nuove, e quindi, perché i prezzi sono veramente molto bassi, e quindi avere la possibilità di avere molti più ascolti nello stesso tempo. Però hanno un signor giro, anzi stanno diventando sempre più... Sì, non erano morte le musicassette in Europa, almeno. Ma no, stanno tornando anche qua. Sì. Pare che ci sia un revival. Molto i vinili, giustamente. Della musicassetta, sì. Non lo sì, anche perché ognuno di noi deve avere almeno un migliaio a casa, sì, no? Della serie, in qualche cartone sparso qua e là tra garage e cantina. Comunque noi faremo il disco prossimo in Super 8. Ah, ci vediamo in Super 8. Bene, perfetto, quindi assolutamente innovativi, diciamo, verso il futuro, diciamo, la musica e gli esperimenti musicali di Miss Chain and the Broken Hills. Allora, un altro pezzo live, cosa ci volete regalare adesso? Let Us Shine, sempre dal nuovo disco. Ascoltiamolo allora. Andiamolo. Ok, perfetto. My heart is pounding like the drum, a beat in the skin, tell the shaman, tear it apart and overcome. I wish there was a way to slow it down, to melt away my frown, turning to gold, my dirty crown. Don't wanna see me, the reason I've been drawing in the black sea, swimming toward the current. goodbye. You can't blame me for being born so blind, to see light only through the shadow and the side to hide, and keep my heart in case to die. Calm down, hold my mind, wrestle that inner breath of light. I can reach my heart in time to set him free, to sing forgiveness up to the heat. Let us in versione acustica un altro pezzo di quelli che tutti gli ascoltatori potranno sentire all'interno del nuovo disco di Miss Chain and the Broken Hills. Si intitola The Dawn e la canzone che ci siamo ascoltati è Let Us Shine, quindi lasciaci brillare in un certo senso. E allora è più triste o più tranquilla e spensierato il testo? Noi non lo conosciamo. Mi sembrava spensierato, però forse una vena malinconica. Una vena malinconica sicuramente, però c'è sempre un mira alla speranza, alla fine, al sorriso. A quello che è il positivismo che diciamo avete irradiato, sì, con gli altri pezzi e soprattutto anche col precedente lavoro che sì, è un po' sicuramente. Da... sì. Non è tutto per forza rose e fiori, no? Non bisogna per forza esaltare ed essere positivi per forza di cose e sforzarsi e inneggiare. No, c'è anche appunto l'ombra, però l'ombra è una cosa bella. Può essere vista anche come una cosa bella, utile, non tutti i mali vengono per nuocere, no? I momenti di solitudine possono essere sfruttati e si può cogliere in questi momenti il tempo per crescere, per vedere altro, e quindi questo è un po' tutto il filo conduttore dell'album. E quindi c'è anche un, come dire, una trasformazione continua di quelli, sì, che sono Miss Chain and the Broken Hills, che partono dalla venatura che abbiamo descritto punk, diciamo portata verso i 60s, portata verso appunto quello che in molti hanno definito il pop and roll, o il power pop, mi è piaciuta anche la definizione, sì, che citava prima Maurizio, per andare appunto anche verso a queste atmosfere senz'altro più impegnate, sì, non perché lo siano meno gli altri, perché mi sembra che ci sia molto impegno, però l'impegnata, così tra virgolette, come si vuole dire di una bella canzone, di una canzone corposa soprattutto. Sì, anche più avventurose, no? Se, se sì. si può dire, cioè più verso paesaggi inesplorati e magari difficili da esplorare in quanto troppo pesanti o troppo cupi. In realtà no, cioè si può esplorarli anche con un sorriso. Dal punto di vista musicale questo pezzo secondo me però all'inizio era molto presliano, molto alla Elvis Presley. Dopo no, poi tu sei venuto fuori con la tua immagine di vocalist che ama molto rhythm and blues, sei uscita, però all'inizio era molto presliano, romanticismo presliano. Dopo no, è cambiata, secondo me all'inizio sì. È un po' una ballatona. È una ballatona, sì. Esatto. Poi diversa, poi si è sviluppata, si è allargata, non so come sia da disco, il disco sarà leggermente più mossa, più elettrica. Aspetti forse. L'8 di marzo, lo ascolti. Esatto, aspettiamo l'8 di marzo. Allora, ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori che questo ultimo lavoro che stiamo ascoltando in piacevole anteprima con Miss Jane and the Broken Hills uscirà ufficialmente l'8 marzo, quindi se volete fare un bel regalo a una donna, comprate questo disco, no? Bello? No, vabbè, sì, ok. Sì, sì. Alla mamma, per l'appunto, piace sì, grandi, certo, piccini, certo, uomini e donne. Quindi Elvis c'è sempre in ogni caso, sì, anche Elvis. Non l'hai citato, nei vostri riferimenti non l'avete citato, però Elvis è sempre là. Lui è sempre là. È sempre sì, là. Da Elvis sono partiti tutti, c'è sì. poco da fare. Vuoi benissimo. Non vuoi, è partito anche gli stesso da se stesso, quindi... Cosa vuoi fare? Ecco, allora abbiamo parlato prima di concerti negli Stati Uniti, di concerti in Germania, siete stati a Colonia, a Friburgo, in altri posti, poi magari ci piacerebbe parlare un po' di questo, ma per essere qui, concisi, nell'ambiente italiano, Veneto, da che parte andrete a suonare prossimamente? Beh, faremo proprio l'8 marzo il release party del disco a Milano per la Burger, il Burger Day Revolution, che verrà fatto in tutto il mondo. È un po' il giorno, il compleanno, tra virgolette, della Burger Records, questa etichetta delle cassette, famosissima etichetta californiana. E noi faremo la data italiana a Milano, presenteremo il disco l'8 marzo a Ligera. Mentre il 9 saremo, giocheremo qui in casa, da mia e sua, mia e si Silva, parti. Dalle nostre parti, a Schio, all'Arcadia, release party nostro e di un altro ottimo gruppo, Il Buio. E di un altro ottimo gruppo, gli Atlanto. Che sono sempre da quelle parti, sempre dalle parti. Il Buio e l'Atlanto, sì. Abbiamo preso generi, nota, il Buio e l'Atlanto. Tra generi diversi tra di loro, però... Ci conosciamo da un sacco di tempo, ci supportiamo indipendentemente poi dalla musica espressa, perché è uno degli aspetti delle nostre vite. E siamo molto contenti di fare questa festa assieme, non vediamo l'ora. Questa è la dimensione che avete imparato andando in America soprattutto, l'essere insieme, fare festa insieme, fare gruppo. In Italia succede molto poco questo discorso. Succede meno, era una cosa comunque nata già, abbiamo tutti dei trascorsi musicali, anche organizzativi, chi più chi meno, beh, soprattutto Franz, che è vostro, praticamente quello che coinvolge Franz, a quanto ho capito. Sì, è quello che il più delle volte ha un po' in mano, diciamo, le redini, o più che altro forse anche è sicuramente molto più bravo di me a organizzare. Ma io purtroppo ho delle lacune, sto lavorando, ma non entriamo in questi meriti. No, siamo perdere. Lo fa di lavoro, Franz, diciamo, sì, che lo fa di lavoro, ha un'agenzia di booking, quindi capiamo. È già predisposto. Esatto. Siamo negli Stati Uniti, come dicevi giustamente tu, abbiamo toccato con mano una realtà diversa che per alcuni aspetti non è all'opposto di quello che abbiamo vissuto, magari più che altro magari 10 anni fa, quando era più facile suonare, c'erano molta più partecipazione, la cosa è andata scemando ogni tanto, però sembra che ci siano dei ritorni di fiamma non troppo fatui, ecco, dal punto di vista partecipativo ed organizzativo. La nostra provincia poi effettivamente non è così male, l'Alto Vicentino si dà un bel po' da fare. Sono parecchi gruppi, si stanno smuovendo anche molte cose a livello, i locali stanno tenendo molto più premesse, cioè si sta smuovendo qualcosa, c'è molto fermento, quindi e poi gireremo, insomma, saremo a Bergamo, avremo un sacco di date promozionali dell'album e seguiteci su Facebook, sulla nostra pagina Facebook troverete tutti gli aggiornamenti L'etichetta italiana del disco, quale sarà l'etichetta italiana? La Tre Accordi Records, un'etichetta milanese che stamperà il CD e si occuperà quindi del CD e e siamo molto felici di ciò. Bene. Benissimo, allora mentre aspettiamo The Dawn, ascoltiamo invece una traccia proprio da CD, uno dei pezzi che trae nell'album, si intitola Searcher, e noi ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto, questa volta da CD. Non andate via, state qua. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Siamo ascoltati questa anteprima del disco The Dawn, che sarà nei migliori negozi di dischi a partire dall'8 di marzo, ma ci sono anche altre forme in cui entrare in possesso del CD, no? Tra altre cose si può acquistare anche tramite internet. Sì. Noi abbiamo comunque il sito Bandcamp, Bandcamp/ Miss Jane and the Broken Hills, dove si possono ascoltare e acquistare tutti i nostri singoli in download, quindi datevi un occhio. Certo, poi c'è anche la possibilità di andare sul MySpace, sempre nella vostra pagina, dove si possono, diciamo, ascoltare anche dei pezzi, tanto sì, per rendersi sempre più conto di quella che è la potenza di alcuni vostri pezzi, e poi naturalmente un po' di fortuna ci vuole. Dall'8 di marzo in poi si comincia a fare il conto della situazione, di quello che è stato il vostro, diciamo, sforzo, atto al conseguimento, esatto, di questo disco. E allora, mentre ci preparavamo per ospitarvi, quindi volevamo conoscere qualcosa di più della vostra musica, anche per non farci trovare così impreparati, siamo andati a vedere un po' di filmati su YouTube. Ce ne sono alcuni di ufficiali, alcuni altri di ufficiosi mandati dai fan, roba. L'altra, abbiamo visto anche che comunque voi due, quindi mi riferisco a a Silva e a Astrid, siete anche stati protagonisti di varie, come dire, performance live acustiche in negozi di dischi addirittura in questo caso. Sì, perlomeno si vede in quel di Friburgo o di Colonia, quindi dalle parti in Germania, dove siete molto scatenati con un pubblico di gente che per un po' non ha più preso visione dei dischi che aveva lì davanti, ma era proprio con gli occhi fissati, sbarrati verso di voi. Cos'era stata, un'improvvisata in quel caso, oppure era concordato con... No, quella... In quel frangente fummo invitati a suonare, eravamo in tour con Paul Collins e la sua band, e era stata organizzata già credo da qualche mese prima la data acustica, abbiamo suonato noi, Astrid e Dio, e poi appunto Paul. C'è stata un'ottima partecipazione, come hai potuto notare anche tu, è stato molto bello, poi suonare mezzi dischi è sempre molto carino, come sta succedendo anche qui, per quanto... Abbiamo lavorato tanto per far uscire bene qualsiasi cosa in studio. Ogni tanto è anche bello riascoltare un po' come sono nate le canzoni, perché quasi sempre partono da Astrid, che così, con una chitarra e con la voce, poi io ci metto qualcosa in più, qualche volta partono, però è anche bello tornare a sentire un po' lo scheletro delle canzoni, e in quel frangente è successo anche questo. L'altra cosa, come si ricordava prima, Astrid ha una chitarra davvero particolare, molto, molto colorata, e nelle foto che pubblicheremo tra qualche giorno all'interno del nostro spazio, nel sito bluradioveneto.it, nella pagina riservata a Miss Chain and the Broken Heels, potrete vedere anche quella che è la chitarra così particolare. Cosa c'è scritto tra le corde, Astrid? Way Out West. È una chitarra che mi è stata... No, non mi è stata regalata, l'ho pagata in realtà. Un mio caro amico. Ti è stata consigliata. Sì. la Grecia aveva fatto questa serie limitata di 5 versioni di questa chitarrina leggerissima e molto simpatica, e mi piace molto perché ci sono delle vacche che vengono rapite da degli UFO e dei cowboy un po' stupiti e imbizzarriti, e a me piace molto questo immaginario country, per l'appunto, molto country, vedi? Decisamente molto, molto attuale anche, no? Si molto parla sempre di più di UFO. Esatto. In realtà gli UFO siamo noi. Eccoci qua. Sì. Mentre Silva ha una chitarra perfettamente normale, non c'è nessuna scritta sulla tua chitarra, no, qualcosina, no, dentro c'è una data. Ah, dentro c'è una data. Che è il 4 ottobre 54 o 57, quando è stata fatta in Sicilia. Però... alla mia età praticamente. Ecco, caso. Poi vi lascio chiacchierare. Perfetto, allora c'è ancora qualcosa che non abbiamo detto, che dobbiamo sapere di questo che sarà questo disco di cui ci avete reso curiosi, e fino all'8 marzo chissà come faremo a trattenerci. Ok, The Tone, c'è ancora qualcosa che non abbiamo detto? Ma abbiamo detto tutto, mi sa. Musicisti che hanno suonato, l'abbiamo sì, quasi suonato praticamente. No, ci sono altri musicisti oltre a voi che hanno suonato? Beh, Pierluigi Ballarin, il produttore appunto del Tup di Brescia, ha contribuito anche lui, ha suonato organo, chitarre, maracas, cembali, sì, cori. E Simone Riccobelli Simone, un corista d'eccezione. Un corista, sì, d'eccezione, dei famosissimi Riccobelli, su un gruppo bresciano a noi molto caro. Già. E che altro dire? Ci sono stati dei clap anche da parte di Stefania Paderno e Andrea Casali, meglio conosciuto come Caso. Questo anche è un altro grande nome che devo segnare. Caso, sì. Esattamente. Sì. Quindi preparatevi, perché ci abbiamo lavorato un sacco e ci abbiamo messo tutto il nostro cuore, la nostra mente e quant'altro. E speriamo. Dalle anteprime che abbiamo sentito stasera, sicuramente sarà un grande successo. Là. Ottimo, grandioso. Mi rincuora. Mamma, non piangere più. Allora, Miss Chain and the Broken Heels, abbiamo avuto ospiti in questa serata, tornate presto, mi raccomando. Volentierissimo. Promesso Flavio, con la band al completo. Con la band al completo, quindi salutiamo ancora a distanza Brown e Bruno. e poi ancora Franz, che sono i due fratelli rispettivamente basso e batteria, quindi la parte ritmica importante di Miss Chain and the Broken Hills. Allora, grazie di essere venuti, grazie di essere stati con noi in questa serata, grazie per averci fatto ascoltare questa anteprima, quindi ci sentiamo anche molto orgogliosi e onorati di avere partecipato a questa anteprima, e anche i nostri ascoltatori ringraziano, aspettando appunto l'8 marzo l'uscita di The Dawn. E allora, noi adesso, come usanza, oltre a salutarvi, ecco, salutiamo i nostri ascoltatori e vi lasciamo i microfoni aperti. Quindi, un grande party. Sì, sì, sì, sì. per un ultimo pezzo, cosa avete scelto? Abbiamo scelto Don't Look Back. Che non c'entra niente con i Boston, assolutamente. No, non c'entra assolutamente nulla. È una battuta che abbiamo fatto in principio prima di andare in diretta. E io ho risposto sì, sì. No, in realtà è di appunto Miss Chain and the Broken Hills. Allora, Maurizio, noi arriviamo ai saluti, lasciamo i microfoni aperti ad Astrid e a Silva per questo ultimo pezzo. Quindi, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao, buona serata a tutti, grazie ancora a Miss Chain and the Broken Hills, grazie a voi, grazie. E buon don. Arrivederci, ciao. Ciao, don't look back, Blu Radio Veneto. Do me right and I do you wrong. Wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. I be the one that you bring me down. Wrong, wrong, wrong, wrong. I pray to win you and be defeated. Wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. It sounds right while I fade away. I keep looking back. I can't find the needle in my haystack. I'm sinking in my own tears, waiting for my own fears, waiting for the choo-choo train of my stormy feelings. The search for light might be in vain. While in the shadows I have drawn, I tell you, don't look back, or you will. Don't look back, run away. Don't look back, or you will. Don't look back. Well, in the road, wishing my phone. I don't like your time for them that throne. You fooled me once and I fooled you twice. Right out this way, oh no, wait. Lose my head in a swans again, that's more than